Molto probabilmente la preghiera del Padre Nostro è la preghiera più conosciuta e forse recitata nell'ambito del cristianesimo. Prima di fare alcune riflessioni in merito ad una supplica contenuta nella preghiera, vogliamo leggerla così come la troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 6. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, e non indulci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. In questa preghiera Gesù ci invita a chiedere al Padre 7 cose. La prime 3 richieste sono indirizzate a Dio, e cioè che il suo nome sia santificato, che venga il suo regno e sia fatta la sua volontà. Nelle altre 4 richieste, Gesù ci invita a rivolgerci a Dio per i nostri bisogni, provvedere a ciò che è indispensabile per sopravvivere, che Dio perdoni i nostri peccati nello stesso modo in cui noi li perdoniamo agli altri, di liberarci dal maligno e di non indurci in tentazione. Mentre le prime 6 richieste generalmente non hanno dato agli studiosi e ai figli di Dio grossi grattacapi di interpretazione, sembra che l'unica richiesta in forma negativa di non indurci in tentazione abbia dato e dia a molti, credenti e non, grosse difficoltà di interpretazione. Proprio per questo è più che opportuno prendere in esame tale richiesta. La prima difficoltà di comprensione nella richiesta di non indurci in tentazione è data dal fatto che, altrove nella parola di Dio, è scritto in modo inequivocabile che egli non tenta nessuno e non può essere tentato. Nella sua lettera, per dissipare ogni dubbio in merito alla tentazione, Giacomo ha scritto: nessuno quando è tentato dica «Io sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Giacomo 1:13. L'espressione di Giacomo mette in evidenza che anche i primi cristiani avevano alcuni interrogativi in merito alla tentazione. E Giacomo è categorico. Anche se l'incomprensibile mondo della tentazione vi è oscuro, sappiate che essa non proviene e non può procedere da Dio. Perciò chiedere a Dio di non indurci in tentazione, come sembra che Gesù abbia insegnato, quando Dio stesso non tenta nessuno, è insensato. Come comportarci? Non facciamo la preghiera, oppure Gesù ci ha insegnato qualcosa di inesatto? La risposta è più semplice di quello che sembra. Quando ci sono difficoltà nella comprensione del testo biblico, è saggio tenere presente almeno 3 regole: conoscere il testo originale, consultare altre traduzioni e gettare alcuni principi che possono guidarci nella risposta. Consultiamo l'originale in greco della richiesta a Dio di non indurci in tentazione. Esso rende «e non far entrare noi in tentazione». Già questa espressione si discosta da quella solita tradotta «non ci indurre alla tentazione». «Non indurci alla tentazione» non può avere lo stesso significato di non sedurci, non adescarci, non attirarci al male, perché, come ha fatto notare qualcuno, sarebbe una bestemmia. Perciò, la forma non indurci in tentazione, anche se letteralmente esatta, è ambigua. Nell'uso comune italiano, indurre qualcuno a fare qualche cosa significa esercitare una pressione sulla sua volontà perché lo faccia, influenzare con successo uno che resiste e talvolta prenderlo alla sprovvista perché faccia quello che non vorrebbe. Questo non può essere attribuito a Dio. Altra cosa, invece, fare entrare o esporre alla tentazione. Dobbiamo anche riconoscere che i verbi indurre ed esporre sono molto simili e che in fondo la richiesta a Dio potrebbe sembrare sempre quella. Ma la sfumatura della differenza merita di essere presa in considerazione, dato che una simile preghiera crea e ha creato un po' di subbuglio nell'ambito della fede. Un esempio per chiarire la differenza dei due verbi è quello del bambino che va a passeggio con il padre, esempio più che mai calzante per rappresentare la vita del cristiano che cammina con Dio. Il cristiano non è come un bambino goloso che tiene la mano di suo padre, il quale lo trascina con forza davanti ad una vetrina piena di gelati perché si è tentato, ma è colui che cammina a fianco di suo padre e, conoscendo i suoi limiti, lo invoca di non fare in modo che lo segua nella via dove ci sono vetrine piene di gelati. Una cosa è essere trascinati per forza, altra è trovarsi davanti alla tentazione perché si segue il proprio padre. Non ci esporre alla tentazione è il senso più vicino a ciò che intendeva Gesù, cioè non permettere che ci troviamo in condizioni nelle quali siamo tentati. Il credente deve pregare il suo Dio che lo conduca in sentieri dove non si è esposto alle tentazioni alle quali sa di non poter resistere. Una simile preghiera può scaturire solo da un cuore che sia cosciente della sua fragilità. Un cuore che è consapevole della sovranità di Dio, della sua potente mano, 1 Pietro 5:6, ma gli chiede la grazia di non trovarsi in certe tentazioni. E a dire il vero, io sono uno di quelli. Se Dio non tenta, perché allora l'uomo è tentato? Chi è che lo tenta? Secondo la Scrittura, due sono gli agenti che agiscono nell'uomo, la concupiscenza e il diavolo. In merito alla concupiscenza, Giacomo è tassativo. Nessuno, quando è tentato, dica «Io sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Possiamo definire la concupiscenza ogni desiderio illecito, ogni bramosia che non è in armonia con la volontà di Dio. E la razza umana di queste inclinazioni ne ha da vendere. Proprio perché la concupiscenza fa parte del patrimonio genetico della razza umana, l'uomo è continuamente tentato a 360 gradi. Solo con una nuova nascita, con una natura divina, l'uomo può evitare la concupiscenza perché chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3:9. L'altro agente, Satana, l'avversario di Dio, viene chiamato tentatore proprio perché uno dei suoi compiti principali è quello di tentare la razza umana. Paolo scrisse ai Tessalonicesi: «Per questa ragione, non potendo più resistere, io pure mandai ad informarmi sulla vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana». 3, 5. L'opera di Satana non risparmia nessuno, come non risparmiò Gesù, il quale fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. È difficile, come alcuni teologi affermano, sostenere che Gesù, poiché era Dio, non fu tentato, dato che, come abbiamo letto, Dio non può essere tentato dal male. L'autore della lettera agli Ebrei non lascia dubbi. Infatti, poiché egli stesso, cioè Gesù, ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Ebrei 2.1.8. Gesù Cristo fu tentato come ogni altro essere umano, diversamente, se non fosse stato uomo, in tutto per tutto, non avrebbe potuto salvare gli uomini. Proprio perché Dio non tenta nessuno, e il compito del diavolo è quello di tentare gli uomini, è possibile dare una spiegazione ad un interrogativo che attanaglia molti credenti. Nel secondo libro di Samuele leggiamo che l'ira dell'Eterno si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: «Va a fare il censimento di Israele e di Giuda», 2 Samuele 24:1, mentre nel primo libro delle Cronache leggiamo: «Or Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele», 1 Cronache 21:1. Come comprendere questa apparente contraddizione? Chi incitò Davide a fare un censimento, cioè a peccare, è stato Dio o Satana? La spiegazione è molto semplice, se si tiene conto di un principio che deve essere applicato ad ogni espressione che troviamo nelle Scritture. Secondo la parola di Cristo, l'Eterno Dio, il Dio della parola, è sovrano, tutto viene attribuito a Lui. Leggiamo nel libro delle Lamentazioni: «Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo, 3 e 38. E ancora in Isaia, io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. 45, 7. Da questo punto di vista, il responsabile del bene e del male è sempre Dio. Infatti, quando Pilato fece presente a Gesù che aveva il potere di crocifiggerlo e il potere di liberarlo, Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Dio ha il potere finale completo, perciò il male che Pilato stava per compiere, anche se non lo deresponsabilizzava, era sotto al controllo del volere divino. In effetti, tutta la scrittura mette enfasi che la morte di Cristo era nei piani di Dio, prima della fondazione del mondo. Messo per scontato la sovranità di Dio per ogni evento della vita dell'uomo e sull'intero creato, l'azione malvagia di Satana trova il suo posto. L'esecutore di ogni tentazione, quando non procede dalla concupiscenza dell'uomo, è il diavolo, il quale diventa, a sua insaputa, uno strumento di Dio per adempiere i suoi piani. La morte di Gesù Cristo in croce ne è un esempio lampante. Perciò, quando leggiamo che l'Eterno incitò Davide a fare un censimento, dobbiamo intendere che l'Eterno decise di indurre Davide in tentazione, e lo fece tramite la malvagità del diavolo. Una simile conclusione potrebbe rendere perplesso qualche credente, perché vedrebbe mettere in ombra l'amore di Dio, ma il racconto di Giobbe è eloquente. Quando Satana chiese all'Eterno di provare Giobbe, l'Eterno non glielo vietò, e Giobbe perse beni, figli e salute. Si potrebbe obiettare che non è stato l'Eterno a decidere di provare Giobbe, anche se è stato lui a provocare Satana, ma la scrittura presenta spesso un Dio d'amore che si rivolta contro la sua creatura. Non credo che si debbano citare tutti i passi per provare che l'Eterno Dio cambia atteggiamento, ma uno solo è sufficiente. Leggiamo nel profeta Isaia in merito al popolo di Dio: ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito, perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro. Isaia 63, 10. Spesso i credenti trovano difficile comprendere l'amore di Dio perché hanno opinioni sentimentalistiche e sincretistiche in merito. Perciò l'amore di Dio diventa per loro una dottrina difficile. Quando diciamo che Dio è amore, intendiamo sostenere che ogni suo atto scaturisce dal desiderio di volere il bene e la felicità della sua creatura, non che egli non usi la sofferenza e la tentazione. Queste riflessioni mettono in evidenza come non sia possibile affrontare un argomento biblico senza tener presente altri aspetti della rivelazione di Dio. In merito alla preghiera rivolta a Dio di far sì che non siamo tentati, abbiamo considerato il testo originale, abbiamo preso in esame altre traduzioni, abbiamo gettato il principio della sovranità di Dio, che Dio non tenta nessuno, e abbiamo considerato l'opera maligna del diavolo. Con questo insieme di verità comprendiamo che la nostra preghiera rivolta al Padre perché non ci esponga alla tentazione è rivolta a un Dio che non ci espone con il desiderio brutale del sadico, ma con l'amore irresistibile dell'innamorato. E se anche dovessimo andare, come per l'Apostolo Pietro, là dove non vorremmo, Giovanni 21 e 18, rimane ferma la promessa espressa nella prima lettera ai Corinzi: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, or Dio è fedele, e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. 1 Corinzi 10 e 13. Che la nostra preghiera possa essere: Padre nostro, non esporci alla tentazione, ma se il tuo volere è diverso, sia fatta la tua volontà, ma soprattutto dacci la grazia di vederne la via di uscita. Amen. Luglio 2004, Ellero,